E buonasera e benvenuti ancora una volta, un po' a sorpresa, in realtà no. Sì, è vero, non siamo mai andati in onda così nella piena estate, ma avevamo dei sospesi perché, come dico sempre, Maite FM ha il suo calendario, ha le sue abitudini e quando arriva luglio è anche il periodo di Sexto Unplugged, una rassegna appunto spalmata nel mese di luglio, a parte una piccola eccezione dell'anno scorso, che si svolge a Sesto a Reghena, provincia di Pordenone, al confine con il Veneto. Prendete l'autostrada, uscite a Porto Goaro, salite un po' più su e ci arrivate comodamente. E per il terzo anno consecutivo Maite FM dedica uno dei suoi specialoni a questa rassegna e partiamo come sempre con l'intervista ad uno degli organizzatori, Daniele Terzariol, che ci illustra la prima parte un po' questo bellissimo festival. E per farci illustrare l'edizione 2017 di Sexto Unplugged e per il terzo anno consecutivo ritroviamo al telefono ancora una volta Daniele. Io per il terzo anno consecutivo ti saluto, ciao Claudia. Ciao, allora appunto noi siamo delle affezionate, appassionate di questa rassegna, soprattutto per quello che la rende speciale rispetto insomma ad altre situazioni simili, ovvero il luogo che determina anche il tipo di atmosfera e il tipo di artisti che vengono selezionati con molta passione anche dagli stessi organizzatori ogni anno, giusto? Per chi non lo conosce, parlaci un po' di com'è il paesino di Sesto. Allora, Sesto a Reghena, rinomato paesino al confine tra Veneto e Friuli, uno dei borghi più belli d'Italia, è un paesino molto molto piccolo in cui si tiene un festival che ormai è arrivato alla sua 12ª edizione. Questo festival si tiene all'interno di un cortile abbaziale ed è un festival molto molto sperimentale, tant'è che ora andremo credo a descrivere un bel po' di date di quelli che sono stati gli artisti del passato e di quelli che saranno di questa edizione, per cui chi ci ascolta si renderà ben conto che la musica che viene emanata all'interno del complesso abbaziale con il complesso abbaziale spesso poco c'entra. Ricordiamo comunque gli artisti che noi più abbiamo amato e che abbiamo visto di persona, per esempio ricordiamo Daughter l'anno scorso, St. Vincent 2 anni fa, poi Olafur Arnalds, io ho visto anche My Brother's Diamond che ha suonato con il coro di Sesto, insomma tutte situazioni che vanno appunto tra lo sperimentale ma anche un'ambizione diciamo orchestrale sinfonica in molti casi, anche per appunto l'accompagnamento con il coro e i musicisti di Sesto, anche per esempio con un personaggio come Patrick Wolf che è venuto più di una volta. Ebbene sì, invece quest'anno abbiamo un cambiamento ancora più epocale perché non so nemmeno io cosa immaginare quando verrà a suonare Trent Miller. Ecco, che adesso comunque lui ha rispolverato una sua vecchia passione per la New Wave, per i Cure soprattutto, e chissà se appunto ritornerà a fare invece del clubbing più tradizionale come l'abbiamo conosciuto. Ma appunto diamo un'occhiata al programma, tutta la rassegna, come è stata in passato, l'anno scorso credo che la data di agosto fosse stata un'eccezione in base appunto a esigenze anche della band, che ci fu appunto solo una data in agosto, tutte le serate si svolgono nel mese di luglio. C'è stata un'anticipazione il 24 marzo con Federico Albanese e poi, lo dico io, partiamo il 9 luglio ufficialmente con la Mark Lanegan Band, ovvero Mark Lanegan, io l'ho conosciuto dai tempi furenti del grunge con gli Screaming Trees, poi anche lui ha iniziato tutto un percorso solista, dei dischi con Isobel Campbell, ex Belen Sebastian, eccetera eccetera. E poi la mia band preferita degli ultimi mesi, ovvero gli Austra, ovvero Ostra, insieme alla compositrice cantante di origini brasiliane ma praticamente tedesca, Dillon. E poi insomma diciamo che a leggere insomma i nomi, quello più grosso anche a livello immagino di impianti audio luci sarà la data del 20 luglio, ovvero degli Air. Esatto, sono in arrivo il duo francese a Sesto a Reghena e siamo molto felici di questo. Insomma, dai nomi che hai letto capisci che è un'edizione un bel po' cicciotta, possiamo aggettivarla così. Noi siamo molto felici di questo, anche perché la scelta artistica, come hai ben ricordato, fortunatamente avviene ancora sulla base dei gusti della nostra associazione. Siete fortunati. E appunto concludiamo con il calendario, ricordando la data del 26 luglio di Benjamin Clementine. Anche qui, appunto, torniamo pianista, compositore. È stato proprio un caso un paio d'anni fa per la sua, diciamo, esperienza un po' da clochard parigino, essendo lui comunque londinese. Io personalmente non so se verrò a vederlo a Sesto, ma sicuramente lo vedrò in un altro festival in Portogallo, tutti i miei giri, e poi, appunto, come hai detto tu, Trent Møller, che chiude il 27 luglio. E questo brusco troncamento dell'intervista era appunto per dividere in due parti questa chiacchierata telefonica che abbiamo fatto con Daniele Terzariol, e seguendo pedissequamente il calendario della rassegna iniziamo appunto con la Mark Lanegan Band. Nel 2017 un nuovo album, Gargoyle, di cui ci ascoltiamo Nocturne. Con la sua band inaugurerà ufficialmente l'edizione di quest'anno, la 12ª, come ha ricordato Daniele, di Sexton Plucked, Mark Lanegan Band, domenica sera 9 luglio presso Piazza Castello. Come abbiamo detto, per chi non lo sa, questa piazza che rappresenta proprio un teatro naturale, vi si accede da un arco, una porta antica, dopo un ponte sulla roggia, proprio insomma da favola, e poi c'è questa piazza chiusa dal complesso abbaziale e al centro c'è la torre con l'orologio, ed è appunto un palcoscenico naturale dove si può usufruire della musica in modo molto molto più concentrato, molto più intenso, ed è per questo che dall'inizio insomma la scelta da parte degli organizzatori era anche di artisti e di musica un po' più raffinata, un po' più sofisticata, un po' appunto di stampo classico orchestrale, ma appunto come abbiamo visto quest'anno passiamo anche all'alt rock, all'alternative rock, all'indie rock d'autore, appunto con Mark Lanegan, che abbiamo detto dall'inizio della sua carriera con gli Screaming Trees, dalla scena di Seattle che tanto ha dato al grunge, gruppo nato addirittura nell'84 con Gary Lee Conner e Van Conner, i due gemelli, Mark Pickerel, ma ne parleremo ancora perché ci saranno tre passaggi a testa di tutti gli artisti partecipanti. Siamo arrivate alle Austra, ovvero il mio gruppo preferito degli ultimi mesi, come ho detto, a cui a febbraio ho dedicato una puntata dedicata al bellissimo album Future Politics, e una delle sue bandiere è questa, infatti la title track. Steal a horse, somebody needs to feel. I don't wanna hear that it's all my fault. The system won't help you when your money runs out. Reality's been a grave, it's been dug. I'm looking for something to rise up above. There's only one way, future politics, la politica del futuro immaginata, pensata, dopo tante riflessioni sul mondo contemporaneo da parte di Katie Stelmanis, appunto ne abbiamo parlato in modo esteso, anche troppo forse, nella nostra puntata che abbiamo dedicato a febbraio per un album che è uscito appunto il 27 gennaio, data anche quella simbolica, il giorno dell'insediamento ufficiale di Trump. Non perderò l'occasione di vederle due volte, sia lunedì 10, quindi abbiamo già una partenza nel programma di Sesto Unplugged, che è questo 1-2, domenica 9 luglio con Mark Lanegan, e lunedì 10 luglio con Austra, e che non saranno soli tra l'altro sul palco, ma lo scopriremo tra pochissimo. Ma il giorno dopo, per i bolognesi sedentari che non sono appunto così fan come me da farsene due date di seguito, ma che comodamente possono andare al Covo Summer Club, ovvero al cortile con il pozzo all'interno dello storico casalone, sede del Covo dal 1980, invece appunto il giorno dopo, martedì 11 luglio, sempre Austra, di nuovo a Bologna. Ed approfittiamo di questi ultimi secondi di Future Politics di Austra per introdurre invece una cantante, cantautrice, compositrice, pianista che non abbiamo mai ascoltato prima di questa occasione, sebbene abbia suonato al di là della nostra parete di casa, ovvero all'Auditorium Teatro Manzoni, non molto tempo fa. Si tratta di Dominique Gillon di Binton, conosciuta appunto solo con il nome di Dillon, nata nell'88, di origine brasiliana, ma a giovanissima età si trasferisce a Colonia con la mamma, e quindi diciamo insomma upbringing germanico e anche scuola inglese, quindi una formazione internazionale, ora di base a Berlino. Ed è stato un po' un caso, perché il suo debutto discografico è tuttora la sua anzi, il primo singolo è stato pubblicato dalla Kitty Yo, che sappiamo, casa editrice musicale di musica inditronica, insomma alternativa, che noi abbiamo amato molto, anche abbastanza danzereccia, e invece poi il primo disco è tuttora la sua casa editrice, è dell'etichetta di Ellen Allen, ovvero la B Pitch Control. E dal primo disco di debutto del 2011 ci ascoltiamo il pezzo che chiudeva l'album. L'album si trattava di The Silence Kills, questo pezzo si chiama Abrupt Clarity. una compositrice, una pianista che oltre appunto alla presenza del pianoforte molto più incisiva in altri pezzi del disco, unisce anche elettronica, quindi magari non può risultare tanto strano il fatto che incida proprio Pitch Control, però Pitch Control è proprio insomma un'etichetta techno molto più spinta. Dillon, che appunto ha ottenuto l'apprezzamento della critica, che l'ha paragonata ad altre cantanti femminili come Björk, e anche un po' per il timbro della voce a Lick Lee. Abrupt clarity I had witnessed a rarity. E comunque questo è il pezzo che avevamo scelto noi per far ascoltare qui in radio da questo debutto discografico del 2011 di Silent Skills, ma molti, la maggior parte degli altri pezzi invece sono molto più, diciamo, sinfonici. Abrupt clarity. Abrupt clarity. Quindi, insomma, se ci fosse un motivo per vedere Ostra due sere, è che appunto lunedì sera a Sesto a Reghena, Sexto Unplugged, ci sarà anche Dillon, e quindi insomma siamo solo contente di poterla vedere anche lei. E come abbiamo anticipato al telefono parlando con Daniele, diciamo il nome che spicca, e che proprio spicca anche perché è alla metà delle date di cartellone di quest'anno, è la data del 20 luglio con gli Air, che sono in tour già dall'anno scorso per festeggiare i 20 anni di carriera. Infatti hanno pubblicato un doppio CD, una doppia raccolta dal titolo 20 Years, una parola unica. Nell'anno scorso abbiamo avuto già la fortuna di vederli due volte di seguito a pochi giorni di distanza a Spring Attitude a Roma e poi al Primavera Sound di Porto. Per chi se li fosse persi in questi passaggi precedenti in Italia, appunto ricordiamo 20 luglio Yair, e vabbè, ci sarebbero potuti essere tantissimi pezzi, no? Dalle canzoni più famose, da Sexy Boy a Cherry Blossom Girl a molti altri pezzi tipo Can You Watch the Stars, All I Need, tantissimi pezzi che sono entrati nella coscienza collettiva. Ma invece appunto abbiamo voluto scegliere un po' dei pezzi un po' minori, un po' diciamo secondari, a parte uno che sentiremo dopo, che appunto non potevamo assolutamente prescindere anche per ricordi personali, biografici, come Might FM sempre insomma contiene. Questo pezzo è Talisman, contenuto in quella meraviglia di debutto che fu Moon Safari nel 98. Ho omesso i dati storici ormai biografici, duo francese nato a Versailles nello stesso momento in cui insomma veniva fuori il French Touch dei Stardust, dei Daft Punk, dei Phoenix, infatti tutti da Versailles in pratica venivano, non da Parigi. Questo duo Nicolas Godin e Jean-Benoît Dunkel, dopo questo fantastico debutto, abbiamo detto Moon Safari nel 1998, che conoscemmo immediatamente e fu veramente una folgorazione. Altri 7 album originali, più o meno una colonna sonora e tanti EP e soprattutto anche remix. Abbiamo deciso di far ascoltare da questo pezzo uno dei pezzi racchiusi nella doppia raccolta 20 Years, questo Talisman, sempre tratto da Moon Safari, e andiamo avanti con la programmazione di Sexto Unplugged, perché il 26 luglio arriva un personaggio molto chiacchierato, un genio musicale dell'epoca contemporanea. Ho sbagliato anche a dire, perché è veramente Benjamin Clementine, anzi in realtà Benjamin Saint Clementine, nato il 7 dicembre 88, artista, poeta, compositore e musicista. Vi hanno detto che è stato un po' un caso, perché si è fatto conoscere per le strade di Parigi, dove suonava, e poi un debutto fantastico nel 2015, At Least For Now, da cui ci ascoltiamo London. Sparkling, sparkling water mixed with peaches and rum. Honestly, I don't drink, but if I did, this would be my favorite punch. He said, woke out the door with her, you could see everyone dressed in black, the classes seemed too far to fit. She said, look at you, look at you, the game is over. Your cup is full, your cup is full, stop praying for more exposure. It is obvious that you're trying, dubious, stop while you die here. You're pretending but no one is buying. London, London is calling you. What are you waiting for? What are you searching for? London, London, London is all in you. Why are you denying the truth? I might be boring you, he said. Although it's not clear as the morning dew, but my preferred way are not happening. I won't underestimate who I am capable of becoming. Come abbiamo detto, nato a Londra, per precisione a Crystal Palace. Va a Parigi da adolescente e diventa un clochard, un senza tetto, ma comincia a suonare per la strada, diventando appunto una figura di culto nella scena artistica e musicale della città. Torna a Londra e poi insomma esplode il successo. She said, look at you, look at you, just pick a fleet. Your cup is full, your cup is full. What have you not yet achieved? It is obvious that you're trying. Dubious, stop or you die here. You're pretending, but no one is buying. London, London, London is calling. My preferred ways are not happening. I won't underestimate who I am capable of becoming. Ed arriviamo all'ultimo nome di questa edizione Sexto Unplugged 2017, definita da Daniele Terzariolo un'edizione cicciotta, perché sebbene i suoni siano un po' più bruschi, un po' più ritmati, un po' anche più cupi in questo ultimo disco, che appunto ha visto la rivisitazione della sua grande, grande passione per la New Wave dei primissimi anni 80, arriviamo a Trent Miller. E non potevamo mettere questa bellissima River in Me con la partecipazione vocale di Jenny Beth delle Savages, tratto dall'ultimo lavoro di Trent Miller, ovvero Fiction dell'anno scorso. Rapporto quello tra Anders Trent Miller e le Savages che è stato cementato dall'aver lavorato insieme, poiché Anders ha mixato l'ultimo album delle Savages e poi quindi c'è stata questa partecipazione, doppia partecipazione come vocalist nei pezzi di Trent Miller, che abbiamo potuto conoscere, ci abbiamo potuto parlare più di una volta, super super entusiasta, super appassionato, e non credo poi che sfiguri molto nel programma di Sesto Unplugged, sebbene i suoni siano diversi, c'è comunque una grande preparazione tecnica, una grande passione, una grande serietà nel lavoro, nello spessore artistico e musicale di Trent Miller. Appunto, abbiamo finito il giro, siamo ritornati a Mark Lanegan, sempre dal nuovo album Gargoyle. Ci ascoltiamo uno dei singoli e video che abbiamo anche oggi postato sulla nostra pagina Facebook Mete FM Radio Kairos, ovvero Beehive. Someone come dicevamo prima, Mark Lanegan, classe 64, ha iniziato negli anni 80 con Screaming Trees, ma già dal 90 ha cominciato una sua attività solista con The Wind in Sheet e poi collaborazioni con altri musicisti e altre band come Queens of the Stone Age. E poi abbiamo già anticipato, abbiamo citato la collaborazione, diversi progetti insieme a Isobel Campbell, ex rimpianta dei Belle and Sebastian, e poi una produzione veramente costante, e anche lui molto molto serio, molto concentrato nella sua produzione musicale. Io dal vivo penso di averlo visto solo una volta, ai tempi in cui si facevano gli Independent Days, mi pare, a Parco Nord. Quindi ricordiamo la discografia, appunto dagli ultimi anni, appunto è stata una produzione costante: Blues Funeral nel 2012, Imitations nel 2013, Phantom Radio nel 2014 e quest'ultimo Gargoyle, da cui appunto stiamo ascoltando Behind. Gets me stoned, honey, just gets me stoned. E ritorniamo alle Ostra con un'altra canzone manifesto di questo ultimo bellissimo, a nostro parere sindacabile, però insomma con tutta la passione di una grande fan della band. Dopo insomma quest'ultima prova abbiamo deciso che era arrivato il tempo di dedicare una monografia, e l'abbiamo potuto fare con un disco che ci convince moltissimo, a partire anche da quest'altro pezzo, Utopia. Ebbene, l'ultimo disco Future Politics rappresenta un po' una sintesi tra i suoni house a cui si erano avvicinati col secondo album e la formazione un po' più classica, un po' più rigida dell'inizio. Appunto questa origine di studi di conservatorio, la presenza del pianoforte, delle tastiere anche nei pezzi più famosi del primo disco, insomma sono diventate appunto dei classici, e soprattutto la formazione canora come cantante lirica di Katie Stelmani si riportano insomma un po' anche gli Ostra nell'ambito di questo tendenza, insomma filone sinfonico orchestrale classicheggiante della programmazione questi ultimi 12 anni di Siesta Unplugged, che ha visto appunto negli anni scorsi dei musicisti che abbiamo già nominato come Olafur Arnalds, mi sembra anche, non vorrei dire una stupidaggine, Nicola Piovani, anche appunto gente che ha fatto poi delle esibizioni rielaborando parte del proprio repertorio, come ha fatto anche Anna Calvi con la partecipazione di questo complesso ed ensemble di musicisti che si è formato appunto nel paese. Non so se quest'anno, non l'ho chiesto, se quest'anno ci saranno anche delle partecipazioni, ma ne parleremo insomma, manca ancora un'oretta per la fine della trasmissione e illustreremo ancora qual è l'impronta, insomma l'identità di questa rassegna che, come dicevo, insomma si è guadagnata il rispetto e la visibilità all'interno del panorama delle rassegne più o meno festivaliere estive, anche perché hanno iniziato in un periodo in cui non erano molte le rassegne musicali estive, anche di musica cosiddetta alternativa, e che, come ha detto Daniele, conservano ancora il privilegio di poter scegliere appunto da fan gli artisti che desiderano, insomma, portarsi a casa. Tu immagina, stai in un paesino di poche migliaia di persone e puoi chiamare a suonare il tuo gruppo preferito. Top. E dopo il debutto nel 2011 con The Silent Skills, with the water I fall over vertical drops, moving sand, plucking stones. Carving deep into you, eroding what we knew, craving shelter, finding hope. E Dillon, ho deciso che dirò Dillon, pubblica il secondo lavoro nel 2014, The Unknown, e questo è il primo pezzo, nonché title track. Under pressure we crack and recede into depths, far from where we began. The unknown. In tutto questo secondo album di Unknown c'è sempre, in questo pezzo in modo un po' più incisivo, ma in altri pezzi a un certo punto arriva un po', sì, quelli che io chiamo i suonini elettronici, anche un po' di ritmica elettronica così, e arrivano, entrano e escono e ti lasciano proprio col desiderio di sentirne di più. Ed è stato appunto sulla scia del riconoscimento ricevuto dai primi due album che addirittura la Haus der Berliner Festspiele le ha commissionato appunto un concerto, una collaborazione con la propria orchestra e coro, e ciò è diventato un album nel 2016. Dillon Live at Haus der Berliner Festspiele, che è appunto la registrazione di questa performance live. E dicevo appunto tra i classiconi dei Air. Favorite flavor. Playground Love, il tema portante della bellissima colonna sonora The Virgin Suicides, film del 99 di Sofia Coppola, colonna sonora invece pubblicata nel 2000, dove c'è questo pezzo cantato da Thomas Mars, ovvero cantante dei Phoenix, marito successivamente, credo, sì, nel 2011, poi alla fine si sono sposati ma stavano insieme già da tempo, proprio con di marito di Sofia Coppola, che ha inciso questo album invece con il suo pseudonimo di Gordon Trax. I'm on fire on the playground now. Una colonna sonora che proprio incarnava benissimo questa atmosfera così languida di inedia di queste bellissime sorelle condannate alla reclusione, e il desiderio scatenato dai ragazzini vicini di casa in questo modo di comunicare attraverso appunto un disco suonato al telefono, uno scambio di un chewing gum. Devo riguardarmi il film, già il libro l'ho recuperato, nel senso che l'avevo prestato tanti anni fa e è ritornato in mio possesso proprio da poco. Siamo tornati a Benjamin Clementine con un altro pezzo di molto successo dall'album At Least For Now, che nel 2015 vinse il Mercury Prize in Gran Bretagna, ovvero Cornerstone. In a box of stone. When all is said and done, as the wind blows to the east from the west, onto this bed my tears have their solemn rest. I'm lonely, alone in a box of stone. They claim to love me by the old line. I've been lonely, alone in a box of my own. And this is a place I now belong. It's my home, home, home, home, home, home, home, home, home. It's my home, home, home, home, home, home, home, home. It wasn't easy getting used to this. I used to scream, but it's not true. And it's only when the door is locked that nobody enters. This mine had been open till your demise, but night had come. Well, who am I? What have I done? What have I done? Benjamin Clementine, un artista, è stato descritto come un uomo di intelligenza insolita, uno stile pianistico fantastico e particolare, una profonda musicalità e un gran carisma sul palco, dove di solito si esibisce in questo lungo trench a petto nudo, a piedi nudi. è addirittura considerato il New York Times uno dei 28 geni che hanno definito la cultura del 2016. Friends I have met, lovers have slept and wept, promises to stay has never been kept. This bare truth of which most won't share, I hope you share. Cause I'll be lonely, alone in a box of my own. They claim I've been lonely, alone in a box of stone. This is the place I now belong. It's my home, home, my home, home, home, home, home, home. It's my home, home, home, home, home. E questa è Cornerstone, che era già stata precedentemente pubblicata come EP nel 2013 e poi ripubblicata nell'album di debutto At Least For Now, che tra poco avrà un attesissimo seguito, mi immagino. Ma appunto per confermare la vocazione, insomma, sinfonica e orchestrale di questo festival, Sexton Plugged, ricordiamo Belen Sebastian, Patrick Wolf, Anna Calvi, Golfrap, Imum, Teoteardo, Blixa Bargeld, Perfume Genius, insomma tutti i nomi di un certo spessore, di una certa delicatezza e anche insomma molto molto particolari. Soap and Skin, il nostro carissimo Chris Garneau, Olafur Arnalds, l'abbiamo detto, My Brother's Diamond, Fanfarlo, ancora Anna Calvi, Divine Comedy, che speriamo di rivedere presto, Scott Matthew, gli Irrepressibles, insomma dall'inizio anche i Tinder Sticks, Benvenue, e sì, non sbagliavo, Nicola Piovani, ancora Patrick Wolf che ritorna, i Cranes, i Calexico, insomma sempre dei nomi molto molto particolari, molto raffinati, Ludovico Einaudi, Blondre Dead, anni fa ancora Philip Glass, Anthony and the Johnsons, l'orchestra di Piazza Vittorio, Carmen Consoli e Michael Nyman, insomma diciamo un pedigree di tutto rispetto. E siamo tornati ancora, facendo tutto il giro, siamo tornati a Trent Mueller, un altro pezzo tratto da Fiction del 2016, si tratta di Fenicia, e ricordiamo che se il 27 luglio chiuderà in bellezza Sexton Plugged a Sesto Arregena, il giorno dopo per gli emiliano romagnoli toscani, insomma giù di lì, suonerà a San Mauro Pascoli per la rassegna altrettanto notevole A Cielo Aperto. Volevo chiedere scusa alle mie svariate centinaia di ascoltatori per dire che se mi sentite un po' affannata è perché, ecco, negli studi Radio Kairos c'è una certa temperatura il 5 luglio e tra l'altro sono vittima negli ultimi minuti di un attacco multiplo e coordinato di zanzare assassine. Essendo finito il secondo giro, ci si aspetterebbe per i più attenti di ritornare a Mark Lanegan, e invece no, abbiamo una new entry, nel senso che controllando più attentamente gli eventi singoli degli concerti che compongono la rassegna di Sexton Plugged, abbiamo visto che in realtà c'è stata un'aggiunta, ovvero che nella serata di Trent Mueller si esibirà anche un gruppo del Friuli Venezia Giulia, regione che ospita Sesto Arregena, sebbene abbiamo detto sia proprio al confine, sia più nella zona venetofona del Pordenonese. Si chiamano The Academy, anche in questo caso il nome è stilizzato graficamente con le lettere maiuscole T-A-C-D-M-Y. Hanno fatto un album l'anno scorso di cui appunto ci ascoltiamo due pezzi. Questo è il pezzo di apertura, si chiama Blavatsky, e l'album invece si chiama Drunk Yoga Velvet Club di Academy. Qui, secondo me c'è del conservatorio da qualche parte. Thank you. È molto bello questo pezzo dei Academy, tratto da Drunk Yoga Velvet Club. Si tratta di Blavatsky e ne approfitto per ringraziare Francesco dell'ufficio stampa Fleisch che mi ha mandato l'album. Ma a livello di crescita, ecco, a livello di finanziamenti, a livello di strutture, a livello di mezzi tecnici, Sesto sta prosperando, sta andando avanti, sta crescendo, si può appunto, diciamo tra virgolette, permettere questi nomi, come per esempio immagino St. Vincent. 2 anni fa, visto che veniva da grandi successi, che quindi fanno anche un po' aumentare il cachet, oppure riuscite ad avere, non dico dei prezzi di favore, però ci sono degli artisti che sono felici magari di venire incontro a delle possibili limitazioni di budget, vista l'esperienza unica che è di suonare in un posto come la piazzetta di Sesto? Diciamo che gli Air, sì, ad esempio, sono stati molto molto felici di abbracciare Sesto a Reghena dopo aver visionato più volte e avercele richieste le foto che riguardano il luogo. Per cui la loro scelta è stata anche proprio rispetto al luogo. Allo spazio, certo. Sì, per rispondere invece all'altra tua domanda, è sempre difficile fare festival in Italia nel momento in cui l'estivo richiede un 30% in più, un 20% in più di cachet normale per tutti gli artisti che girano lo stivale da praticamente da giugno fino a settembre inclusi. E quello che bisogna fare, quello che noi stiamo continuando a fare, è continuare a partecipare a dei bandi regionali e avere la capacità di vincerli. Fortunatamente è avvenuto anche quest'anno, per cui riusciamo a tenere dei prezzi molto bassi. Infatti, per quello che riguarda i biglietti e la media comparata con altri festival, e soprattutto quello che ci tiene in piedi è la volontarietà delle persone, perché nessuno di noi, non voglio che sia un motivo di vanto, però è sempre bene ricordarlo, non percepisce un compenso. No, cioè, invece secondo me è importante invece dirlo. E un altro dettaglio tecnico, c'è una forma abbonamento, magari i nostri ascoltatori possono essere interessati, o invece sono ingressi singoli alle serate? Allora, assolutamente sì, quest'anno abbiamo la nostra formula abbonamento, che l'anno scorso è stata sospesa mentre... Ah, ecco, per questo ritorna. Ho chiesto. Quest'anno ritorna la grande, secondo me tra l'altro è una formula molto conveniente, sono incluse tutte le date, forse quella degli Air. Sì. Le 4 date, per cui che includono Lanegan, Austra con Dion, Trent Muller e Benjamin Clementine, l'abbonamento prevede un prezzo di €60, per cui con una, cioè, media di 15€ a concerto, guarda, sì, che è la media in qualsiasi rock club invernale per un magari un gruppo italiano o straniero, un di gruppo italiano emergente, un gruppo conosciuto. Sì, sì, infatti. Perché... penso che questo aspetto è anche importante e sia anche importante per i nostri ascoltatori. Allora, lo capiamo perfettamente, perché non è facile per chi è appassionato di musica scegliere un bel po' di date durante l'estate. Infatti. E nel momento in cui vengono richiesti anche €40 per un artista, magari non dico misconosciuto, ma con una discografia non certo corposa, viene difficile a partecipare a tanti concerti durante l'estate, quindi abbiamo scelto di andare incontro agli spettatori. Fortunatamente possiamo ancora permettercelo. E questa qui è un'altra nota di merito per una rassegna che da quando è nata si è sempre distinta per una ricerca, per un gusto, per quest'unione dell'ambiente, di una certa estetica alla ricerca musicale. Ne parleremo nella prossima ora qui a Might FM. Grazie Daniele per averci dedicato il tuo tempo e probabilmente per Iostra sicuramente ci vedremo su. E buon lavoro. Grazie mille Claudia, grazie a tutti i tuoi ascoltatori. Ecco, appunto, non avevo fatto in tempo a annunciarla, ma è arrivata la seconda parte dell'intervista. Chiedo scusa per i rumori di sottofondo, che erano le chiavi della macchina, il vetro elettrico e le cicale, perché l'intervista è stata fatta nel nostro studio mobile, dentro al quale mi stavo squagliando sotto il sole più spietato. Adesso invece mangiata dalle zanzare, fantastico. Siamo tornati a Mark Lanegan con uno dei pezzi un po' più lenti, più riflessivi, sempre insomma, marchiati da questa voce così, così roca, chissà quante sigarette fuma. E si tratta di First Day of Winter. I see tears, a photograph of you, my dear. Mike Lanegan e la sua band, che presenteranno nella data, la prima data di apertura di Sex Unplugged, questa domenica 9 luglio, il loro nuovo album Gargoyle. Molto bello, sarebbe altrettanto bello poter assistere al concerto, ma non si può essere sempre ovunque, diciamo che già quello che riusciamo a fare è abbastanza. E siamo passati invece a lunedì 10 luglio, nonché martedì 11 luglio al Covo Summer Club, ovvero Ostra, terzo pezzo, terzo singolo, terzo video, I Love You More Than You Love Yourself. Come abbiamo già detto, ne abbiamo parlato tantissimo nella puntata monografica che ripercorre tutta la carriera finora e un approfondimento speciale di ascolto completo dell'ultimo disco appena uscito allora, ovvero Future Politics, per questo pezzo che, mentre negli altri casi si parlava appunto di una visione utopica, di una visione della politica del futuro che si ascevra dalla schiavitù del capitalismo, del sessismo, delle guerre eccetera eccetera, e che sia soprattutto un futuro molto queer, in questo caso si tratta proprio di una canzone d'amore verso una persona vicina, una persona vittima della depressione, quando a volte si è impotenti e non si sa come proprio raggiungerla, come entrare in contatto con la persona. E non a caso il titolo della canzone è Ti amo più di quanto tu ami te stesso. Noi le Ostra, e parliamo al femminile perché insomma è un quartetto composto da Katie Stelmanis alla voce delle tastiere, Maya Postepsky, questi batteristi che si chiamano tutti Post qualcosa, come Michele degli Ofelia, insomma Maya alla batteria, e poi c'è Dorian al basso e ai synth, e poi altre tastiere, l'altro ballerino ai cori, cui ora mi sfugge il nome, Ryan mi pare, ma diciamo che l'impronta queer è anche abbastanza femminile, è assolutamente schiacciante, quindi per una volta parliamo del neutro femminile invece che del neutro maschile. L'unica volta che le abbiamo viste fu appunto qualche anno fa al Radar Festival di Padova, dove estorcemmo gli autografi sul poster, e dove Maya, che insomma ha un suo umorismo, senso dell'umorismo, come ho detto in trasmissione, molto understated, della serie facce serissime, dice delle cose, secondo me mi ha un po' preso per il culo, nel senso che mi ha guardato, avrà visto questa un po' attempata, che portava una maglietta attempata, che era una maglietta dei Rem, mi ha guardato perché non sapeva cosa scrivere e mi ha scritto Rem Rules. E direi che a Sesto o al Covo più probabile mi prenderò una rivincita, non solo magari chiedendo una scaletta, cosa così, ma soprattutto accumulando ancora un altro ID, ovvero quando io in pezzo gli artisti che riesco ad avvicinare e gli faccio registrare dei jingle, insomma dei saluti a Radio Kairos, che però poi non faccio sentire mai. torniamo a Dillon Dillon Dillon, ovvero Dominic Dillon de Binton, nome nobile. Questa compositrice, cantautrice, pianista, abbiamo detto nata a San Paolo, però cresciuta a Colonia e ora vive a Berlino. Abbiamo detto che dopo i primi due dischi, The Silent Skills e The Unknown del 2014, è stato questo live in cui i pezzi, tutti e due gli album, non tutti ma molti, tutti e due gli album sono stati rivisitati insieme al coro e all'orchestra della Berliner Festspiele, e adesso c'è un nuovo tour in attesa del nuovo album che unisce, appunto, rivisita il suo repertorio, diciamo il tour che unisce i titoli dei due album, ovvero The Silent Skills, The Unknown. E sempre da Unknown ascoltiamo A Matter of Time. Matter of Time, Dillon Dillon, che si esibirà prima, dopo, non sappiamo, di Ostra, sul palco di Sexto Unplugged in Piazza Castello, Sesto a Reghen, a pochi chilometri da Porto Gruaro, al confine tra Veneto e Friuli. E anche il fatto di essere, insomma, all'interno della regione Friuli Venezia Giulia, secondo me non è indifferente, nel senso che lo statuto speciale, anche a livello di cultura, di bandi, di finanziamenti eccetera, insomma è un po' una baza, come si direbbe a Bologna. E poi loro sono molto molto bravi a promuoversi, come ha detto Daniele, partecipano ai bandi, hanno la capacità di vincerli e soprattutto hanno anche un'immagine vincente, un'estetica che funziona molto, ma ne parleremo tra poco, perché adesso dobbiamo presentare questo che è uno dei pezzi a me sconosciuti, racchiuso invece nella raccolta degli Air 20 Years, uscita l'anno scorso per appunto celebrare il ventennale della loro esistenza. Si tratta di Addis Abeba, colonna sonora di un film del 2010, Quartier Lointain, un film di Sam Garbaschi tratto da un manga di Jiro Taniguchi. RIP. Thank you. fatto venire voglia sia di leggere il manga che di vedere il film, questo pezzo Addis Abeba, perché ovviamente è una raccolta di due CD, oltre ai pezzi più famosi, singoli, video dei Year, ci sono anche dei cosiddetti deep cuts, cioè dei pezzi che loro appunto considerano molto importanti la loro discografia, ma che magari appunto non sono i più conosciuti e più famosi, come per esempio c'è un pezzo che stavo per mettere, poi per motivo di tempo non l'abbiamo messo, ovvero un pezzo, mi pare, di Pocket Symphony, dove c'è questo duetto tra Charlotte Gainsbourg e Jarvis Cocker. E siamo ritornati a Benjamin Clementine con un'anticipazione, uscito il video il 30 maggio 2017, si tratta di Phantom of Aleppoville, in anticipazione appunto del già annunciato seguito di At Least For Now. L'album si chiamerà I Tell a Fly, uscirà tra settembre e ottobre. Praticamente una suite musicale, si sente poi lo stile personale, il territorio musicale creato da Benjamin Clementine. Questo pezzo, abbiamo detto, Phantom of Aleppoville, è stato composto dopo la collaborazione con i Gorillaz. C'è un pezzo, Alleluia Money, cantato da Benjamin nel nuovo disco dei Gorillaz, un pezzo che è stato composto in seguito alle letture dello psicanalista britannico Donald Winnicott, e parla appunto del trauma che rimane nell'animo dei bambini che soffrono il bullismo a scuola e che può essere appunto paragonato ai bambini che invece subiscono la guerra. Quindi c'è questo paragone tra la piccola città ormai scomparsa di Aleppo e il Phantom, che poi è anche Phantom Limb, ovvero l'arto fantasma, ovvero questo trauma che non ti abbandona. Between children and bullying, Some say they wonder why you bullied me, but I laugh, 'cause I know that you know that we will never, never know why they keep the bullying. So believe it's forgiven. Magari la gente si chiederà perché hai fatto il bullo con me quando ero piccolo, quando eravamo piccoli. Sai, io e te sappiamo che in realtà la risposta non c'è. In effetti non si sa perché i ragazzini agiscono in un modo così crudele. Insomma, questa domanda che rimane senza risposta e che continuerà a rimanere lì sospesa. E sarà molto bello quindi vedere il concerto Benjamin Clementine, perché immagino presenterà soprattutto pezzi di questo nuovo lavoro, I Tell a Fly, che uscirà tra il 15 settembre e il 2 ottobre, dipende dai mercati europei o americani, e che io non so se ci sarò a Sesto a Reghena il 26 luglio, ma sarò sicuramente il 19 agosto al Vodafone Paredes de Cora nel nord del Portogallo. Ma questo è un altro discorso. Siamo tornati a Trent Muller, un altro pezzo che vede la partecipazione vocale di Jenny Beth, leader della fiera delle Savages. Si chiama Complicated e volevo ricordare che oltre a il 27 luglio a Sesto a Reghena, come ho detto il 28 luglio sarà a San Mauro Pascoli per A Cielo Aperto, 28 luglio in cui a Bologna, a Covo Summer Club, ci saranno gli Arab Strap, 28 luglio in cui contemporaneamente al Parco della Manifattura ci sarà l'ultimo aperitivo di Kairos in the Garden. amarmi è complicato e ce lo credo, perché Jenny Beth non ci pare tu una personcina tanto tranquilla. Trent Muller sul palco di Sexton Plugged, come abbiamo detto, un festival che funziona molto anche per l'estetica delle sue grafiche, dei suoi poster, dei suoi trailer, dei suoi video, e questo grazie ad un piccolo genio dal nostri bel Friul, ovvero Thomas Wally Marcuzzi. Speriamo di vederlo, se appunto, dovrebbe essere tornato dall'ennesimo viaggio in Islanda, lui che ne è un esperto riconosciuto. E chiudiamo questa presentazione della rassegna di Sexton Unplugged 2017 con il gruppo che abbiamo nominato prima, ovvero The Academy, gruppo friulano doc. Come prima abbiamo sentito il pezzo di apertura del loro album Drunk Yoga Velvet Club dell'anno scorso, adesso ascoltiamo il pezzo di chiusura. Si tratta di Wow Signal, per un gruppo nato nel 2012 e formato da Alessio, Gianluca, Marco e Vito di Academy. Ed è sulle note del gruppo friulano doc di Academy che Maite FM vi saluta. Ci sentiremo ancora in questa estate torrida per parlare di altre rassegne nazionali e non. Chi vi ha tenuto compagnia, mangiato dalle zanzare, ancora una volta è stata Claudia Maite Mau. Buon ascolto su Radio Kairos e ci vediamo tutti a Sesto.